qualcuno? No, tutti usciti. Al mare? Sì, al mare a passeggiare. Allora, tutto a passeggiare. Ciao gente, buonasera. Ciao, ciao Luca. Sempre in Russia. Sono in VHF, ciao anche a Gianni, ciao, ciao. Ciao, Cla, hai sentito? Va. Già siamo qua, io ho appena acceso. Oggi ti ascolto proprio come se fossi in stereofonia. Proprio bene, senza rumori, senza nulla. Oggi ti ascolto bene davvero. Che apparecchio stai usando già? Sto usando l'Intec. Ma perché con l'altro male mi senti con quello che c'è in vendita? Cosa? Ho detto con quello che c'è in vendita perché male mi senti. No, ti sentivo con rumori sottofondo prima, capito? Probabilmente era da regolare, da fare. Non lo so. Gloria, se non me lo dite voi qui, cosa se devo abbassare? Io lascio sempre così difficile che tocco. Magari si mette a fare prove, mi capito? Perché anche tu karaoke? Karaoke? No, ho detto se faccio prove. Ah, ho capito, se faccio il karaoke. No, magari mi metto a giostrare col mixer e poi mi dimentico di rimettere tutto com'era, capito? Che hai filtri, capito? Questa colonnina dell'ala è bellissima, c'ha il filtro, ti fa ascoltare perfettamente. Cari Rose, ma è tro. Ma io ho capito, la mattina tu ti alzi verso l'ora di pranzo per caso già? La mattina praticamente stanotte non ho dormito nulla e ho preso sonno dopo aver preso Lucchi dalle 7 di mattina fino alle 10. Beh, perché ti mando i messaggi, ma fino al primo pomeriggio, Raus, niente. Eh beh, immagina, sto passando un brutto periodo qua, sto dormendo la notte e cerco sempre di evitare di prenderlo, ma quando evito poi c'è i dolori e non mi fa dormire. Poi Zanca. E in più non ti dico come sono oggi, sembro uno zombie, sono smallato perché cosa ho dormito? Dalle 7 alle 10 mi ho dormito e basta. Poi mi sono alzato e ho fatto quello che dovevo fare, però sempre non capivo cosa stavo facendo e brumizzo ancora. E finché non ti metto una mano adesso, davvero. Ma è facile, speriamo che si decidano subito perché sennò guai. Io non ce la faccio più, sinceramente, senza dormire la notte da mesi, una notte solo ho dormito, mi ho fatto la puntura prima di andare a dormire, ho dormito tutta la notte. Io stamattina invece avessi 6:30, 7:15 così, ci sono riuscito a fare il prelievo e così, soliti controlli. Dove c'è andata la dedosta? Questo è un laboratorio che c'è qua, già sono bravi. Mi ha messo un po' di roba il dottore, così fate tutto il gruppo. E dice più campo e quanto ce n'è. Oh yeah. E a me mi ha fatto fare anche l'esame dei reni, mi ha fatto fare mi ha fatto fare la lastra al piede, perché c'è un dito che invece è bloccato del piede, mi ha fatto fare la lastra per vedere che cosa riprendeva. Era un'infiammazione che ho avuto per un taglio. Basta che ti fa un taglio e ti vuoi bilanciare subito in fisione. Andiamo. Adesso per dire, mi ho messo le scarpe quelle estive senza calze e alla giovanna mi ha fatto la bolla e adesso mi è andata l'infezione e mi è uscita un'ulcera. È quello che non sappiamo neanche a pescare, a dire, capito? Quello è diabetico e così. Lo so. Guarda, la cosa importante è tenere sotto controllo i reni, anche se no è un casino. Sì, Rene, se prendi paschi da tutto andare, Rene se ne vanno in quel paese. Ma io sto prendendo solo quella dei trigliceridi e cose, quella per il fegato, dai, che so di mettere in giamba. Ce l'avevo con la pesticidi, la prendo anch'io, ce l'avevo altri, me l'ha dato anche a me. Qui l'ora. Quella dobbiamo prenderla a vita, purtroppo, capito? Poi sempre qualche problema c'è. Tu immaginate che quando mi hanno operato la scorsa volta mi hanno tenuto in ospedale per vedere se, perché di solito tengo 5 giorni, mi hanno tenuto 15 giorni, mi hanno tenuto sotto controllo perché ci avevo l'albumina bassa e volevano vedere anche per la storia se si chiudeva bene la ferita, ma in 2 o 3 giorni mi si è chiusa, capito? Ed era un'operazione. Però quando succede al piede è una cosa diversa. È brutto, sì, è brutto, sì. Tu pensa che io un giorno portando il cane sono andato in questa aiuola, mi ha tirato in questa aiuola e c'era un fondo di bottiglia con la punta e ci ho messo il piede perché c'era l'erba sopra, non si vedeva. Ci ho messo il piede e mi è centrato dentro la scarpa, c'avevo le scarpe da tennis e mi ha bucato il piede, ma niente di che, una puntina. La dottoressa subito mi ha fatto fare l'antitetanica e cazzo, però mi faceva sempre male, mi usciva a pus, allora sono andato all'ospedale e mi hanno operato d'urgenza. C'avevo schegge di vetro da tutte le parti, sicuramente come ho pressato e cose. Beh, quest'ulcera che mi si è formata una voragine, quasi si vedeva l'osso, scavata, come quando c'è il verme, la stessa cosa, scavata così. Beh, per farla guarire, 5 anni e non guariva, mi hanno visto 100.000 dottori, professori, questo, quell'altro, niente da fare, non ce l'hanno fatta a farmela guarire. Un'amica mi ha dato l'oro colloidale, ho messo quello lì, guarita in una settimana. Hai visto? Anche l'aloe fa bene. Ma no, l'oro colloidale è una cosa, guarda, micidiale. Gli ho messo quello e yellow silver dai, sì. No, ti sei attivato l'eco. Cosa? Ti sei attivato l'eco. Guarda così? No, adesso, ma prima sì, infatti ieri era quasi comprensibile. Cappa, deve essere l'ho toccato, perché c'è le rotelline dietro con l'eco e anche il volume, capito? Se lo urti appena appena col dito è quella la cosa brutta. La regolazione ce l'ha dietro, c'è una rotellina di quelle grandi e praticamente se la urti si muove. Perché tu devi fare come ti ho detto io, pulsantino, tiki tiki, te lo tieni in mano, ti curichi, il microfono lascia dov'è. Sei troppa cosa in giro, no, mamma mia, già venne in roba, per carità. E adesso il 21 devo andare, cazzo, alle 9:20 me l'ha dato l'appuntamento. Ma a me piove, mi attendi, un po' cupo, stanotte c'era a scirocco, ma di brutto, però l'hai sentito? Sì, ma c'è staffa, mamma mia. E affa sì, c'è, affa è un bel. E infatti se io non avessi avuto questa cosa alla gamba io me ne sarei andato a stintino adesso in questo periodo, perché adesso c'è poca gente, puoi fare chi su tutti i bianchi. Certo che sì. Mamma, mi assento già 5 minuti. Eia, Claudio ci sei? Hola. Gianni! Luca, ci sei? Capita già, ma sono i karaoke, sì. Mi sono drummito. Non è possibile, bobo. Come fai a addormentarti così? Sono arretrato. Brutto. Kappa Roger, mi stavo preparando un po' di attrezzatura, che mi hanno detto che si sta pescando. Anche calamasci stanno prendendo anche così che preparo tutto. Vedo un po'. Tappato già. Mi adattie. È strano, perché c'è caldo ancora, non sai, sto facendo preferibile. Io sai quanto ne ho preso di quelle tozzanali, ui, non si conta. Quelle mi sono arrivate stamattina, le hai viste? Quella grande c'ha anche le bigliette dentro. E la piccola è fluorescente. Io sai cosa faccio? Le illumino con la pila prima, le faccio prendere bene la fluorescenza e poi li lancio. KK. Adesso vediamo. Claudio. Non c'è nessuno. Prendiamoci tutto. Ma infatti. Ah, io l'ho venduta, tanto poi faccio vendo e poi ricompro, quindi non conviene. Conviene tenersi la roba, tanto non ci chiede da mangiare, non paghiamo anche più tasse. Quello là che sto vendendo solo per comprare un altro apparecchio, poi se ce la faccio a vendere lo prendo, se no ritengo questo. Quindi tu quando vai domani? Luca, Lucrezia. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Oh, Luca, ci sei? Oh, ciao!